24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. 6:30, linea 5 Siena Montaperti. Sono solo con una vecchietta accanto a me. Al primo starnuto, con la coda dell'occhio vedo che si tira la sciarpa fino sopra il naso. Al secondo starnuto, prenota la fermata, saluta e scende in mezzo al nulla. Allora, le 8, 17 minuti e 15 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, è venerdì 28 febbraio. Cara Maria Latella, buongiorno anche a te. Buongiorno, ieri sera ero a un dibattito, mi sono scappati due starnuti. Quelli seduti accanto fuga, a me fuga. Si sono impercettibilmente spostati. Fuga dalla Latella. Allora, cara Maria, è venerdì. 28 febbraio appunto, ricordatevi che domani è il 29 e non il primo marzo, anno bisesto, anno funesto, dice qualcuno. Sì, è cominciato proprio male, devo dire. Malino. E stando ad alcuni, diciamo, autorevoli economisti, potrebbe anche non essere finita qui, ma non per il coronavirus, quanto perché sotterraneamente, neanche troppo, è in corso una bella guerra tra gli Stati Uniti da una parte e poi i quattro poteri alternativi, la Cina, la Russia, l'Iran e il Nord Corea. E questo dobbiamo tenerlo in qualche modo in considerazione perché, per esempio, nella campagna presidenziale questi quattro paesi potrebbero avere interesse a scalzare Trump. C'è chi dice che, per esempio, una imprevedibile epidemia di coronavirus negli Stati Uniti potrebbe togliere a Trump quello che ora sembra un vantaggio notevole sugli altri candidati. A proposito, Maria, ce l'abbiamo Carmelo Lauricella Trump proprio, perché ha presentato il piano nelle scorse ore. Sentiamo un passaggio. We have a total of 15 people and they're in a process of recovering, with some already having fully recovered. Ha presentato questo piano sul quale ci sono tutta una serie di perplessità e su come stanno affrontando la questione degli Stati Uniti. Da una parte, perché i test non ci sono, non sono stati validati dal Centro per il Controllo delle Malattie, quindi fino a poco fa non erano stati distribuiti. Costano tantissimo. C'è il caso che è circolato in internet nei giorni scorsi di un ragazzo che aveva un'influenza, è andato a farsi controllare per vedere se aveva il coronavirus e dato che non ce l'aveva, gli hanno fatto pagare una cosa, mi pare, $3,000 per il test. E quindi ovviamente tutto questo spinge la gente e dice vabbè, a questo punto non mi faccio controllare. E poi affidando tutti argomenti a favore di Sanders, che è in questo momento il candidato democratico in vantaggio, ma non è l'unico cigno nero che a questo punto, chiamiamolo evento imprevedibile, perché di cigni neri, se no dobbiamo sempre stare a citare il famoso libro di Nassim Taleb. C'è anche il fatto che l'economia americana, che ora sta andando a mille, subirà dei ritardi per la questione della mancata produzione cinese, e quindi anche questo avrà un effetto. Insomma, guardando un po' fuori dai nostri confini e guardando al paese che influenza di più l'economia del mondo, ancora gli Stati Uniti, è tutto molto aperto. Adesso vedremo con il Super Tuesday, con la battaglia tra i candidati democratici, se Sanders davvero manterrà il vantaggio o se invece qualcuno dei rivali riconquisterà qualche posizione. Sì. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive proprio adesso, dice: ma perché non chiamate qualche politico Novax per chiedergli cosa ne pensa di questa cosa? Sono solo buoni a far caciara quando non ci sono altri argomenti di cui parlare. A proposito di questo, mi viene da dire che il presidente americano ha affidato tutta la gestione della questione al vicepresidente Mike Pence, che è uno notoriamente con posizioni antivacciniste, quindi anche su questo fronte è interessante. Allora, c'è un'altra questione, come lo stanno affrontando gli altri paesi europei. Ieri un po' ne ha parlato, anche se solo vagamente, il ministro della Salute Speranza. Sentiamolo, va. A differenza di come alcune volte è stato riportato, nessun paese in Europa prevede la sorveglianza domiciliare o forme di quarantena per chi viene dalle aree a rischio. Ancora oggi Noi lo abbiamo fatto per gli studenti dall'8 febbraio e per tutte le persone dal 21 di febbraio. A questi controlli vanno aggiunti quelli effettuati mediamente su 16 grandi navi al giorno, con circa 5.000 passeggeri e 1.700 membri dell'equipaggio. Ecco, insomma, no? Fammi andare in Gran Bretagna, Simone, lo riferisce il Telegraph, dove è in corso un normalissimo acceso dibattito su tenere aperte o no le scuole per evidenti ragioni. I ministri del governo di Boris Johnson dicono no, non chiudiamo le scuole, non siamo allarmisti, perché tutto questo non è necessario. L'hanno discusso mercoledì scorso e hanno calcolato che appunto la chiusura di 35 scuole avrebbe un effetto, sole 35 scuole, avrebbe un effetto sbagliato, sarebbe un messaggio sbagliato. E la stessa discussione è in Germania e in Spagna, e sembra che si stia andando verso appunto la decisione di tenere bassa l'allarme. Sì. Sì, un po' come hanno fatto fino a questo momento. Diversa la situazione in Giappone, dove a proposito hanno deciso di chiudere le scuole fino ad aprile, esattamente per questo motivo. L'impatto in queste ore, poi ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione, si fa sentire soprattutto dal punto di vista economico, in particolare per l'Italia. Avete sentito dell'annullamento del Salone del Mobile, ci sono altre fiere che si è deciso di non annullare, come per esempio Vinitaly, come per esempio Cibus, che è una fiera importante del settore agroalimentare. Parleremo con il presidente di Federalimentare e col presidente di Federlegno Arredo, sono due grandi settori importantissimi della nostra economia e del Made in Italy, per capire anche come stanno affrontando le cose, come vanno le cose anche dal punto di vista della produzione in Italia, che tipo di rallentamento sentono. Sì, però mi pare che anche in Italia si stia andando verso un ritorno, se possibile, alla normalità. Sì. In Veneto, no, il governatore Zai ha detto voglio riaprire le scuole, e in quella direzione sì, mi sembra che si vada. In Lombardia è ancora un po' incerto. Speriamo sì, che il governatore si sia tolto la mascherina. Che quell'immagine del presidente della regione Lombardia, il video terribile con la mascherina, credo che abbia prodotto qualche danno alla nostra, come dire, comunicazione come sì, paese. Sì, scusami Maria, una piega, mi perdoni un attimo, eh? una correzione, perché ho detto una scemenza, e quando uno dice una scemenza ce ne dicono tante, per carità, però cerchiamo di limitarle. Ovviamente il Salone del Mobile è stato spostato, non è stato annullato, naturalmente sono state annullate le date di aprile, prego, scusami. Sì, spostato a giugno. No, dicevo appunto, sarebbe opportuno che tutti, a cominciare da noi giornalisti, ma insomma chi ha responsabilità istituzionali è un pochino più sotto osservazione, ecco, avessero scegliessero una linea di maggior basso profilo, tanto comunque di protagonismo ce n'hanno a bizzeffe, no? Non c'è bisogno di trasformarsi in attori per un attimo. Sì, direi proprio di sì. E raccolgo l'appello dell'ascoltatore, sono abbastanza d'accordo. Bisognerebbe giocare a Juve-Inter a porte aperte, non a porte chiuse, perché tra l'altro è una partita che verrà trasmessa in tutto il pianeta e sarebbe tutto sommato un bel segnale. Ti voglio portare su altro, cara Maria, ed è questo. Ho letto, con un po' di polemiche che sono arrivate dai docenti, che parecchi ci hanno scritto, il pezzo della stampa nella quale si parla della carta docenti. Cos'è la carta docenti? Un bonus per l'aggiornamento professionale dei professori da 500 euro previsto dalla legge della buona scuola, e si fa un po' un resoconto sulla stampa di come sono stati spesi questi soldi, e ci sono molte spese per PC, tablet, concerti, e si parla forse della necessità di un controllo maggiore, magari da parte dei dirigenti scolastici. Su questo, tra l'altro, appunto, ci sono arrivati messaggi. Dibattito aperto come sempre al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta anche sui temi del coronavirus, dell'economia. E uno dei tanti interventi degli ascoltatori è questo. Sono un insegnante. Il vero problema sulla carta del docente è che l'offerta è un'offerta molto scarsa, cioè io non ho trovato un corso di lingue finanziato dalla carta del docente nella mia zona, e quindi me lo sono dovuta pagare da sola. Dopodiché sul controllo, il controllo in teoria a priori, cioè può offrire servizi sulla carta del docente solo chi è selezionato dal ministero. Che poi molti corsi offerti non siano assolutamente all'altezza, su questo purtroppo è vero. Non lo dica a noi che facciamo quelli di formazione professionale, quelli dei giornalisti. Comunque, Maria, comunque, che siamo no, Simone, io penso, prego, che sia utilissimo che gli insegnanti, i quali, lo ricordiamo, non sono retribuiti con grandi stipendi, possano avere la possibilità di comprarsi dei libri e andare ai concerti. E poi sì, anche ovviamente un PC che in questi giorni sta tornando utile, perché come ci aveva detto qualche giorno fa la ministra Azzolina, l'idea di fare le lezioni a distanza è un sistema che in questo momento può essere utilizzato se si deciderà di tenere ancora per qualche giorno le scuole chiuse, ma comunque è un elemento importante anche per il futuro, perché chissà che non si possa prevedere un allungamento, per esempio, delle lezioni nel pomeriggio, che sarebbe tanto utile per tante famiglie, e la tecnologia in questo caso potrebbe essere importante. Ci fermiamo, c'è la pausa, ci ritroviamo subito dopo, parliamo degli effetti economici del coronavirus, faremo un quadro, come si diceva, da due grandi settori del Made in Italy. Mattino. Due grandi settori dell'economia italiana, due grandi settori del Made in Italy sono qua rappresentati con Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ed Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo. Buongiorno anche a lei, Orsini. Buongiorno, buongiorno anche a lei. E con voi vorremmo fare un quadro della situazione alla luce del, appunto, di Covid-19, di tutte queste chiusure, del rinvio del Salone del Mobile, della conferma invece di Cibus e Vinitaly. Maria, prego. Allora, buongiorno Vacondio, buongiorno Orsini. Cito un titolo del Sole 24 Ore di questa mattina: tra disdette e penali la situazione diventa assai complicata, la tempesta perfetta per gli eventi aziendali. Cerchiamo di guardare alla situazione con freddezza. Il Salone del Mobile, che è l'appuntamento più importante non solo per Milano, ma richiama da tutto il mondo, è stato rinviato. Che cosa comporta per voi questo rinvio? Che cosa comporta questo rinvio per l'economia lombarda? I danni evidentemente ci sono, ma che tipo di feedback state ricevendo? Cioè, verranno tutti lo stesso o no a giugno? Orsini, prego. Guardi, allora, partiamo da un presupposto che questa settimana, quando abbiamo deciso lo spostamento, non è stata una decisione facile, soprattutto perché purtroppo prevediamo quest'anno come settore, ma soprattutto anche abbiamo la probabilità che il nostro settore possa perdere circa un 20% da qui alla fine dell'anno, se continua così. Quindi è logico che far scegliere ai nostri espositori di investire lo stesso in un momento del genere, dove hai dei cali di fatturato, il numero che le dicevo prima, e ricordo che il nostro fatturato complessivo è di 42 miliardi e mezzo, e le consideri che ogni miliardo che noi perdiamo sono circa 8.000 posti di lavoro, quindi per noi non è una situazione facile. Se lei legge sul sito della Fernasina i posti dove noi possiamo uscire e dove possiamo in modo esportare i nostri prodotti, noi oggi, io ieri avevo persone che dovevano andare in Turchia, persone che dovevano andare in Israele per definire dei contratti, è logico che non sono potute partire, perché Turchia non è che è chiusa, però ci dice se non vieni è meglio, a quel punto i contratti li fa qualche di un altro, il vero tema è questo. Quindi preoccupazione non solo del 20%, secondo me siamo al fine genere, ma tornando al Salone del Mobile, nei ragionamenti fatti, quindi voglio dire, mantenere una posizione del genere, che vuol dire essere responsabilità, avere una responsabilità sociale, non solo per la Lombardia, mi faccio dire, ma per tutta Italia, che sono del mobile, se facciamo game over al Salone, è logico che per noi più o meno è indotto di 1,3 miliardi in quei 10 giorni sul paese, perché non ci dimentichiamo che abbiamo la viabilità dei treni, abbiamo insieme tutta la parte della città di Milano, noi gli alberghi li occupiamo da Torino a Bologna in quei 10 giorni, quindi il numero complessivo. Spostarlo, sì, l'abbiamo confermato la data, il 16-21 giugno, non potevamo fare altro perché anche noi dobbiamo fare la nostra parte, però anche qui abbiamo bisogno di avere con noi sia lo Stato, quindi il Governo, perché noi dobbiamo pensare adesso a detrazioni fiscali, del credito d'imposta per chi fa le fiere, già è una normativa, ma dobbiamo incrementarla, perché noi non solo per l'anno, ma per i prossimi 2 anni, perché quest'anno sicuramente non guadagneranno le nostre aziende, abbiamo bisogno di ICE, che vada in ogni modo a colpire che vada a colpire sicuramente i paesi che servono per farli entrare, perché se abbiamo certezza che gli Stati Uniti in questo momento non fanno uscire i loro concittadini per i prossimi sei mesi perché la copertura sanitaria non ci sarà, e per, nei paesi dove c'è il coronavirus capisce che noi perdiamo un pezzo di popolo, e noi facciamo conto che il primo paese extra-UE sono gli Stati Uniti in vendita al Salone del Mobile. E poi abbiamo bisogno in ogni modo di dare un incentivo a chi farà la manifestazione. Noi oggi sentore di perdere pezzi non ne abbiamo, proprio perché abbiamo fatto, mi faccio dire, un consiglio allargato, anche perché dovevamo guardarci negli occhi nel dire bene, ok, per noi è un investimento massimo, ma cerchiamo di esserci tutti, noi come federazione faremo la nostra parte, dove cercheremo di andare incontro ai nostri produttori, perché quello deve fare la federazione, ma altrettanto chiederemo a Cassa Depositi e Prestiti di darci una mano sui mutui a tasso agevolato per far sì che anche i piccoli possano venire a fare la fiera, però con molta pressione. Senta Orsini, poi andiamo da Vacondio, non è stata una decisione affrettata, ce lo scrive anche qualche ascoltatore, dice magari si poteva aspettare 3-4 giorni, o la dimensione del Salone del Mobile, quello che ci diceva lei, alberghi prenotati da Bologna a Torino e soprattutto tutto il fuorisalone naturalmente, che è un pezzo importante del salone, impediva di pensarci troppo. Faccia conto che noi non è che siamo contenti di spostare il salone, il vero tema è che noi nel sondaggio fatto all'interno delle nostre aziende, le persone, e noi abbiamo 184 paesi del mondo che ci vengono a visitare per 430.000 persone, stavano dicendo non veniamo. Non veniamo perché questa è la situazione, perché il vero tema è che oggi l'Italia, più che perché tutti avremo i nostri problemi, perché vuol dire tutti i settori saranno colpiti, io credo che avremo mesi durissimi se continua così. Il vero tema è che noi stiamo perdendo il brand made in Italy, cioè, il vero tema è che perdere posizioni, cioè, non è che chi è fuori dall'Italia, noi abbiamo la Francia e la Germania che sono i nostri primi paesi europei di vendita, se noi non ci andiamo, noi gli mandiamo i nostri prodotti, loro aspettano noi, loro compreranno i prodotti francesi o tedeschi e ci sarà qualcheduno che occuperà. Vorrei darle un elemento, come dire, di conforto. Ieri il presidente francese Macron era a Napoli, ha preso il caffè, quindi la tensione mi sembra più preoccupante adesso rispetto agli Stati Uniti che rispetto ai paesi europei, perché ai paesi europei non conviene premere l'acceleratore troppo sulla chiusura eventuale dei viaggiatori italiani, perché poi potrebbe essere il contrario anche per loro. Insomma, io credo che il problema sia più verso gli Stati Uniti che non verso la Francia e la Germania, che ne dice? Mi perdoni, però io sono ben contento che il presidente francese venga a bere un caffè col presidente italiano, no? Però a me interessa che vengano i buyer francesi, perché oggi io non ho questa certezza che i buyer francesi siano così contenti in Italia e che loro cerchino di occupare la nostra posizione. E di questo, guardi, purtroppo non è che noi, vivendo il mondo reale, nell'essere in giro tutti i giorni per poter provare a chiudere dei contratti, in questo momento oggi c'è aspettiamo. La risposta che ci sentiamo dire è aspettiamo. Cioè noi abbiamo bisogno di rimettere l'Italia quella che era 10 giorni fa, l'eccellenza nei suoi prodotti. Adesso d'altra parte c'è Ivano, che è un caro amico, che spiegherà lui anche per quanto riguarda i suoi prodotti, ma se noi all'estero non riusciamo a ritornare eccellenza, ci sono altri che in ogni modo cercano di prendere il nostro mercato, perché il nostro made in Italy era l'eccellenza, oggi noi non possiamo smontare quell'eccellenza, ma lo stiamo facendo noi e non possiamo permettercelo. Sì. Andiamo appunto da Ivano Vacondio. C'è stata nei giorni scorsi due conferme dal settore dell'alimentare, no? Da una parte la conferma di Vinitaly, tra l'altro, che si svolge in una zona nei pressi, insomma, non lontana da uno dei due focolai. Dall'altra parte la conferma di Cibus a Parma. Qua le scelte come sono state? Ma sono state scelte, buongiorno intanto, grazie dell'invito, sono state scelte logicamente ponderate alla luce di quello che conosciamo oggi, perché la questione è molto in evoluzione. Io sono molto contento di questa decisione che abbiamo preso insieme a Fiera di Parma. Noi non abbiamo avuto disdette perché oramai tutti avevano prenotato, perché funziona in questa maniera il Cibus, e quindi non abbiamo avuto defezioni, non abbiamo avuto sensazioni di averle anche dopo, e quindi andiamo su questa strada, anche perché un po' di ottimismo ci vuole, anche perché mi sembra che la questione stia prendendo una piega, come devo dire, meno pessimistica, non voglio dire ottimistica, meno pessimistica. Per noi è molto importante il momento decisivo, anche perché, come lei saprà, il nostro settore è l'unico che segna un segno più nella manifattura italiana. Insomma, noi siamo abbastanza orgogliosi di questo dato. Senta, chi arriva da voi? Qual è il principale paese tra quelli che visitano la vostra fiera? Beh, insomma, noi la maggior parte sono i paesi europei che vengono, perché il Cibus è una fiera, come devo dire, del territorio più che altro, e della food value alimentare, quindi noi abbiamo un bacino, come devo dire, meno internazionale di quello che che si può pensare. Comunque noi ad oggi non abbiamo nessuna disdetta, soprattutto da parte dei buyer europei. Comunque la questione poi è in evoluzione, perché oggi tirare delle conclusioni è difficile. Noi comunque confermiamo la nostra volontà di fare Cibus, anche perché siamo in partnership con Vinitaly e quindi abbiamo, come devo dire, concordato con loro questa strada. Per me è molto molto importante. Resta il fatto che il nostro settore è un settore che è messo, come tutti, a dura prova. Non abbiamo grandi difficoltà nella produzione, abbiamo delle difficoltà nella logistica, con le quali io vorrei cercare, se posso, di spiegare quali sono le difficoltà, perché qui, come diceva Orsini prima, i paesi concorrenti con noi, soprattutto sul Made in Italy, perché noi, come col Made in Italy, vendiamo veramente nel settore alimentare delle eccellenze. Noi nel settore alimentare abbiamo negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento del 92% delle esportazioni. E questo ha chiaramente innervosito i nostri concorrenti, e quindi qui si innesca anche un meccanismo, come devo dire, non solo sanitario, ma anche e soprattutto di marketing, o di possibilità di far la guerra ai nostri prodotti. Guardi che il discorso dei paesi che non fanno entrare e che non fanno uscire i trasporti che vengono in Italia, ieri mi segnalavano che in Croazia gli autisti che rientrano dall'Italia li tengono in quarantena, e questo spaventa moltissimo, quindi nessuno parte più per venire da noi o per uscire da noi. Questo è un grandissimo problema. Noi abbiamo più un problema nell'importazione della materia prima che non nella collocazione dei nostri prodotti, anche perché tutti sanno che il coronavirus non ha impatto con i prodotti, ma sì, con le persone. Sì, però qualcuno cavalca qualcuno dei nostri concorrenti cavalca questa spirale, mettendoci in grandissima difficoltà. Devo dire però, se posso, prego, che devo fare un elogio al governo. Si sta muovendo tutto il governo, soprattutto i ministri interessati, la salute, la Bellanova, il MISE, per aiutarci da questo versante. Anche il ministro degli esteri Di Maio mi sembra che abbia mandato dei segnali molto chiari ai suoi interlocutori. Tutto il governo. Guardi, dottoressa, tutto il governo si sta muovendo. Noi solitamente siamo critici per il ruolo che abbiamo col governo, in questo caso devo dire che sta facendo un lavoro immenso, ma non è facile. Io sono molto contento del lavoro che stiamo facendo, siamo in contatto continuamente con i ministeri, sia come Confindustria che come Federalimentare, perché il vero problema che noi abbiamo, come sto dicendo, è sull'export. Come dicevo Orsini, noi abbiamo impiegato 15 anni, 20 anni a costruire nel nostro settore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo, dove si riconoscono veramente, assieme alla moda, un grandissimo immagine ci siamo costruiti. Bisogna che ci acclappiamo e che non permettiamo ad altri, in maniera anche scorretta, di metterci in difficoltà. Questa è una battaglia tutta politica che speriamo di fare. Il Cibus è un elemento, sì. Il fatto di confermare il Cibus è una grandissima cosa, è un grandissimo segno di vitalità e soprattutto di vivacità del nostro settore. Noi in questo momento abbiamo fatto fronte ad una, nel weekend ci hanno svuotato i supermercati, certo. Abbiamo dato una dimostrazione, secondo me, di efficienza, perché nel giro di 2 giorni siamo stati in grado di ripristinare tutto, nonostante le difficoltà che ci sono nella logistica, perché la logistica su gomma in questo paese non è flessibile nella maniera più assoluta. Però ad oggi la situazione è tornata normale e credo che abbiamo dimostrato una grande forza, noi e soprattutto le nostre maestranze, le quali abbiamo chiesto un sacrificio enorme di straordinaria inflessibilità. E certo, 800 24 00 24 per, se volete intervenire in diretta ovviamente su questo e altri argomenti, 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp audio. Battuta di un ascoltatore, dice, contro il Covid-19 dicono di lavarsi spesso le mani con soluzioni alcoliche, e quindi il Vinitaly è perfetto, perché ce l'hai là sotto mano tutto sommato. Senta, va con Dio. Si aggiunge alla questione logistica, se mi permette, un'altra questione che è collegata alla questione logistica, è la collocazione territoriale dei grandi poli logistici italiani, che sono a due passi da quello che è il focolaio. Questo è una grandissima preoccupazione, ha creato problemi, però mi sembrano che siano in fase di risoluzione, però innegabilmente questo è un problema, perché nell'area, diciamo così, incriminata, abbiamo lì la maggior parte della distribuzione, e questo è stato un momento difficilissimo. Ma ad oggi io guardi vorrei tranquillizzare, ma non per fare il buonista, io non lo sono certamente, né per carattere né per educazione. No, ma non c'è da fare buonisti, c'è da fare giustamente del realismo. Però le posso dire che ad oggi io, da parte dei nostri associati, non abbiamo segnalazioni di criticità importanti. Abbiamo delle difficoltà che sono una cosa, ma le criticità sono una cosa diversa. Noi ancora ad oggi io non ho segnalazioni di questo tipo, quindi con tutte le difficoltà del caso, con tutti i costi anche del caso, noi stiamo rispondendo bene, nonostante sia vero che in quella concentrazione di territorio ci sono delle difficoltà, ma le stiamo superando. Guarda che noi siamo un paese che nelle difficoltà abbiamo dimostrato tante volte di essere i numeri uno. Io sono più questa è l'occasione per dimostrarlo paese. Ancora. Io vorrei, mi scusi se la interrompo, ma vorrei tornare a parlare del Salone del Mobile, che mi interessa anche sotto il profilo della reazione che non soltanto gli investitori e i buyer stranieri stanno avendo, ma anche il tipo di stato d'animo che si coglie tra i produttori dell'arredo Made in Italy, che resta uno dei più apprezzati al mondo. Ecco, siccome Vacondio diceva siamo un paese forte, sappiamo reagire, questo stato d'animo di voler reagire lo si coglie anche tra i mobilieri? Cioè il messaggio che veniva prima da Vacondio, della serie il governo ci sta aiutando, ci sta dando una mano, ma noi dobbiamo essere anche quelli che smettono di fare allarme e pensano concretamente a come far bene i prossimi appuntamenti. Si coglie anche tra voi o c'è un po' di depressione? Guardi, il tema vero è che noi abbiamo un bene di consumo diverso da quello del presidente Vacondio, cioè il fatto che noi in questo momento, sicuramente dove la gente cerca di capire quello che succede, non ha in mente di cambiare una cucina, di comprare un divano o di fare una struttura in legno, un edificio in legno. Quindi, allora le do una buona notizia, io nel mio piccolo invece proprio in queste ore sto comprando degli armadi e rifacendo la cucina, messaggio di positività, e non ho cancellato i miei programmi. Guardi, io sono un uomo che tende a essere sempre positivo, no? Solo che sa, quando poi alla fine prende tante sberle, deve anche dire che ha preso tante sberle. Allora, nel ragionamento, guardi, è molto semplice. Fino a 10 giorni fa, una settimana fa, il nostro rischio e pericolo era la Cina e il Giappone. Paesi interessanti, importanti, fanno il 4,7% del nostro fatturato, settimo paese del mondo. Quindi voglio dire, in quel momento onestamente ci preoccupava, ma ci preoccupava il giusto, perché il fatturato poteva calare del 5%, poi c'è qualche nostro produttore che spedisce il 50% in Cina, quindi è logico che quelli dovevamo aiutarli, però mediamente Germania, Francia, Stati Uniti tanto, perché noi vendiamo 2 miliardi di prodotto negli Stati Uniti, è logico che al momento invece ci preoccupa di più, ma ci preoccupa quello che diceva prima Vacondio, il fatto che comunque anche gli autisti che arrivano, oppure quando tornano vanno in quarantena, o sono tutti preoccupati. Cioè, qui veramente dobbiamo fare un'operazione Europa e sistema. Cioè, perché se ci mettiamo tutti insieme, e a questo punto credo che l'Europa non ci possa lasciare da soli, no? Perché qui dobbiamo veramente capire quanto è forte essere parte dell'Europa, perché insieme facendo sistema, a questo punto noi salvaguardiamo i nostri mercati, perché se non è così, guardi, purtroppo tra 2 mesi ci troveremo a parlare di altri numeri. Poi purtroppo io devo parlare di negatività, lei mi ha detto parliamo di realismo. Dentro la federazione noi abbiamo i produttori degli allestimenti fieristici. Questo è un comparto che fattura con indotto dalla tecnologia al nostro prodotto circa 2 miliardi. primi quattro mesi partiranno con il Dimitris, sperando che si riesca a mantenere le date, e noi ne siamo contenti, perché voglio dire, è la Dimitris e Cibus, perché poi sono quelli che primi partiranno, ma io sarei veramente felice, spero, mi auguro che sia così. Ma per i primi cinque mesi questi non fattureranno nulla, e in ogni modo quindi anche di questo noi dobbiamo parlare, perché è vero, sì, che è questa economia reale che in questo momento loro sono a terra. Guarda, noi siamo consapevoli che aver spostato la data al 16 di giugno, 21 di giugno, siamo anche in contemporanea con PT, e Modo Uomo Milano. E qui faremo una prova vera di sinergia. Io sto a Nardella dicendo mettiamoci insieme, poi anche con il presidente di Modo, cerchiamo di metterci insieme con Marenzi per fare sinergia, per fare vedere che l'evento, a questo punto, messo insieme di design e moda, possono essere incentivanti ancora di più nel fare essere attrattivi per il mondo, perché oggi c'è da fare sistema. Quindi voglio dire, questa per noi, per uscire in modo positivo, noi abbiamo bisogno di messaggi positivi, cosa che abbiamo visto ieri in sala. So che ne uscirà un video di Venezia. Io credo che se tutti quanti facciamo la nostra parte, ci prendiamo per mano, problemi non ce ne saranno. Sì. Però non dobbiamo dimenticarci che questi 4-5 mesi, in ogni modo, sono veramente di piena difficoltà. Sì. Senta Orsini, arriva una sollecitazione da un ascoltatore che è un imprenditore del vostro settore, il quale dice: ho fatto un giro di telefonate ai miei clienti esteri più stretti e mi dicono, la metà mi dice, io non vengo nemmeno a giugno. Avete qualche preoccupazione su questo fronte? Certo. Figuriamoci se non abbiamo delle preoccupazioni. Anche per questo io in apertura con lei gli ho detto: guardi, noi abbiamo bisogno di un grande aiuto di ICE, che è la nostra agenzia internazionale, perché oggi noi dobbiamo concentrare gli investimenti, visto che giugno perché ci sarà luglio, ci saranno tante manifestazioni insieme alla nostra, ci si concentrerà a livello fieristico. Noi dobbiamo andare a togliere i soldi che abbiamo messo in giro. Se io so che gli Stati Uniti, purtroppo, da quei prossimi sei mesi, se è verità, non verranno in Italia, è inutile che io faccia investimenti di B2B da qui ai sei mesi negli Stati Uniti se non mi accettano. Devo andare a far sì che gli investimenti li vado a mettere per le fiere, e quindi andare a cercare a riportare i buyer almeno più importanti. Sì. Mi faccio dire così, perché poi voglio dire, io ne vorrei 430.000, ma magari. Ma il vero tema è che se non ne ho 430.000, ma ho i più importanti, li vado a prendere io, li prendo per mano, gli metto anche la mascherina, ma li faccio venire, li vado a convincere, uno a uno possiamo farcela. Ma le voglio dire una cosa, sempre per portare un elemento di ottimismo. Ricorderete che qualche anno fa Parigi è stata traumatizzata da un lungo periodo di attentati, e ci sono state due stagioni che sono andate malissimo per il turismo francese: alberghi vuoti per il 30%, disdette anche di business, eccetera. E poi la vita è ricominciata, quindi voglio portare questo elemento di fiducia in un momento che ovviamente di fiducia ha molto bisogno. Allora, un ascoltatore, va, sentiamo una voce. Sto viaggiando da Treviso verso Trieste e vi confermo che la 4 è insolitamente vuota di camion. Non sarà mica che è vero quello che dice il responsabile di Cibus, che tutti i croati, polacchi, eccetera, hanno paura di tornare nel loro paese? Eh sì, che non è il responsabile di Cibus, ma è il presidente di Federalimentare, che raccoglie l'industria alimentare italiana, va con Dio. Quindi conferma, per così dire, testimoniale, sì, testimoniale di quello che ci diceva lei. È così, il governo ne è consapevole, ma io, se posso, scusate, volevo aggiungere, la preoccupazione non è solo, cioè, voglio dire, settoriale. Qui il grande problema, per chi ha delle responsabilità istituzionali, il sistema paese. Perché è evidente, io spero proprio che la Comunità Europea ci aiuterà e ci permetterà di, come devo dire, di aumentare il nostro debito, e quindi ci aiuterà mettendo a disposizione dei fondi. Però il cane che si morde la coda, perché avremo più debito, avendo più debito avremo più interessi passivi avremo meno risorse per gli investimenti, quindi qui il problema è estremamente serio. Io mi auguro solo che qualcuno non passi l'idea del patrimoniale o di tasse, perché a questo punto sarebbe veramente un disastro per il nostro settore, ma non solo il nostro settore, ma tutto per il sistema produttivo del paese. La sì. questione è molto complessa. Teme l'effetto a cascata, va con Dio lei, cioè quindi difficoltà economiche, però, più deficit, eccetera, eccetera. Prego. Mi faccia fare però un appello. A questo punto è necessario, un appello con la modestia di quello che rappresento, logicamente. A questo punto bisogna lasciare da parte i personalismi, cercare di avere la testa sulle spalle e di lavorare tutti insieme. Questo è importantissimo, mi riferisco soprattutto alla politica. Oggi governare questo paese, dare risposta alla luce di quello che è successo, è complicatissimo, difficilissimo. È il messaggio che è arrivato dal Quirinale, va con Dio. Ieri credo che il Presidente della Repubblica Mattarella l'abbia fatto capire un po' a tutti. A tutti, sì, direi decisamente di stare di sì. sul pezzo senza stare a pensare ai piccoli interessi politici o investire in progetti che in questo momento distraggono da quello che serve, cioè aiutare l'economia del paese. Andiamo a chiudere, come se lo sentite, la sigla ci porta via. Grazie Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, Emanuele Orsini, presidente di Federlegno, Arredo. Cara Maria, ci sentiamo lunedì alle 8:20. Buon fine settimana, chi vuole mi può trovare domenica con Nessuno è Perfetto alle 10 su questa radio come sempre. Naturalmente, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Turli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione per tutta la settimana, così come grazie per tutta la settimana Margherita Ine e Francesco Sarafo, i nostri autori. Ci risentiamo lunedì alle 6:30. Ciao!